Topic of our Dhamma talk this late afternoon is concentration. Quindi l'argomento del discorso di questa sera è la concentrazione. And Satya, this talk, Satya, then will fit in nicely or tie in nicely with earlier talks on mindfulness. That was a very early talk, and Satya, then yesterday's Dhamma talk on effort. Quindi questo argomento si collega molto bene con due precedenti argomenti trattati, e precisamente la consapevolezza, che uno forse è stato il primo discorso, e poi quello di ieri sera, cioè lo sforzo. No. There's mention of the five controlling faculties, and those are faith, effort, mindfulness, concentration, and the last one is intuitive wisdom. So out of those five controlling faculties, by the end of this talk we will have dealt with three of them. Quindi si parla nei testi delle cinque facoltà di controllo, che sono la fede, la concentrazione, lo sforzo, la consapevolezza e la saggezza intuitiva. Forse non in quest'ordine, comunque questi sono i cinque fattori, e quindi quando avremo finito il discorso di questa sera avremo trattato tre di questi cinque fattori. Now, during this talk on the concentration there will be just at first some general observations, giving you the general context in which concentration arises, and then various definitions for concentration as given in different texts, and that then will be followed by some aspects related to concentration, and in particular various characteristics that concentration ideally should possess, and then time permitting at the end there will be a few remarks about the difference between concentration that arises in Vipassana meditation and concentration that arises in Samatha meditation. Quindi cominceremo con così un'idea, col dare un'idea generale di cos'è la concentrazione, poi passeremo alle definizioni date nei testi della concentrazione, poi tratteremo alcune caratteristiche che la concentrazione deve possedere, e infine, se c'è tempo, vedremo la differenza che c'è tra la concentrazione che si sviluppa nella pratica di Vipassana e quella che si sviluppa nella pratica di Samatha. Now, the general context is that we engage in this spiritual practice to then eventually gain liberation from suffering, and in particular liberation from this samsaric cycle of birth and death. Quindi, così per parlare in generale della concentrazione, possiamo dire che noi intraprendiamo questo sentiero spirituale per poter giungere alla liberazione, la liberazione dalla sofferenza innanzitutto, ma anche la liberazione da questo ciclo samsarico della di nascita e morte. Perfect wisdom arises through perfect concentration, and perfect release is satna the result of satna perfect wisdom. Quindi la perfetta saggezza nasce da una perfetta concentrazione, e la liberazione totale, quindi completa, giunge grazie a una completa o totale saggezza. Yes. And when the mind is so well concentrated, then we will see or understand things as they really are. Quindi quando una mente è ben concentrata, noi vedremo e comprenderemo le cose così come realmente sono. Now, the place of fitting concentration in the context of the three trainings is as follows. The three trainings consist of the training in morality or virtue, sila, seka. Then we have the training in concentration, samadhi, seka. And then the training in wisdom, panya, seka, in the Pali scriptural language. Quindi per quanto riguarda la posizione, diciamo, della concentrazione nei tre addestramenti mentali, questi sono, per ricordarli, l'addestramento nella moralità, ovvero nella lingua pali sila seka, l'addestramento nella concentrazione, quindi samadhi seka, e l'addestramento nella saggezza, ovvero panya seka. No. You can see that concentration is taking up the middle position between sila, training in sila, and the training in wisdom. Quindi vedete che la posizione della concentrazione sta in mezzo allo sviluppo della moralità sila e della saggezza panya. So the concentration is fulfilling a certain function for the development of wisdom to arise. E quindi è chiaro che la concentrazione svolge una funzione importante affinché ci sia lo sviluppo della saggezza. Now, if one were to start with right away with the training in concentration and suddenly say, well, what do I need these precepts for? It's just making life unnecessarily difficult. Then one may be able to concentrate the mind to some extent, yet sooner or later one might find oneself transgressing bodily or verbally, and the result of such transgressions then will be what? Quindi una persona potrebbe anche, cioè, si potrebbe anche cominciare con la concentrazione, pensando che tanto i cinque precetti si possono trascurare, che sono solo lì per renderci la vita difficile, e effettivamente si potrebbe sviluppare un certo grado di concentrazione. Però se si trasgrediscono delle regole morali o etiche, potrebbe succedere che cosa? Ci concentriamo sui delitti. You concentrate on your crimes. Oh, you could, yes. And then what happens in the mind? Cosa succede quindi nella mente? What's that? He says defilements increase. The defilements increase, and reflecting back on one's transgressions, one feels then super happy, or remorse comes up. That's it. Quindi quando uno riflette su queste trasgressioni, diciamo, può sorgere il rimorso. So, remorse, as we have seen in an earlier Dhamma talk on the hindrances, clearly agitates the mind, and thus because of one's unethical conduct, because one is not based in virtue, then this is interfering with one's attempt to develop concentration. Quindi, come abbiamo visto in precedenza, il rimorso provoca l'irrequietezza della mente, e quindi questa irrequietezza nella mente fa sì che sia molto difficile lo sviluppo poi della concentrazione nella propria pratica. And so, therefore, mentioning the training in virtue first and saying that this is the foundation for the remaining two trainings makes a lot of sense. Quindi ha molto senso considerare e dire che la base di questi tre addestramenti è proprio sila, la moralità, è quello con cui occorre iniziare per poi sviluppare gli altri due addestramenti. Now, one or the etymological explanation in regard to samadhi is as follows, namely that term, Pali term samadhi, consists of three parts, sam and long a, and the root da, which then Nyat-nyat means the fixing of the mind on a single object. Quindi per quanto riguarda l'etimologia della parola samadhi, essa è composta da di tre parti. La prima è sam, poi c'è una a lunga e poi da. E il significato è la mente che si fissa su un oggetto. Now, in the Majjhima Nikaya we have a simple definition for concentration, namely as one-pointedness of mind, cittas ekagata in the Pali scriptural language. Quindi nel Majjhima Nikaya abbiamo una definizione della o di samadhi che è la mente che si fissa su un oggetto. E quindi nella lingua Pali è cittas ekagata. Ekagata, vero. So, scusate, non la mente che si fissa, ma la mente che è focalizzata su un punto. Yes. Esatto. Now, when it comes to concentration, it comes in different degrees, ranging from very weak concentration to very high levels of concentration. La concentrazione si presenta sotto varie gradi, diciamo, può esserci una concentrazione più superficiale o leggera, fino a una concentrazione molto forte. Now, from an Abhidhamma point of view, concentration is certainly a mental factor that occurs certainly together with all consciousness. So it's one of those certainly universal mental factors, sabbasadharana in Pali. Quanto riguarda invece la collocazione nel quadro dell'Abhidhamma, allora la concentrazione è considerata uno stato mentale che si presenta con tutte le coscienze, quindi è un cosiddetto universale. And so, since that is certainly the case, then one needs to distinguish further between concentration that arises when it is associated with wholesome consciousness on the one hand side, and satna then this in Pali is referred to as samma samadhi, right concentration, and then on the other hand, when concentration is associated with unwholesome consciousness, then it gets classified as micha samadhi, wrongful concentration. Allora, essendo questo il caso, cioè il fatto che è una universale che si presenta in tutte le coscienze, allora occorre distinguere se una concentrazione associata con stati mentali positivi o salutari, distinguerla da una concentrazione associata invece con stati mentali non salutari. Nel primo caso si parla di samma samadhi, quindi la retta concentrazione, nell'altro caso micha samadhi, cioè la concentrazione non retta. Sbagliata. Now, in various fields, whether it's in our spiritual practice or outside of the area in worldly activities, concentration is required. Quindi in molti campi, in molte sfere, sia nella nostra pratica ma anche nella nostra vita quotidiana, la concentrazione è necessaria. No, to give you three examples, even four cases of wrongful concentration. So vi darò tre esempi in cui c'è una concentrazione sbagliata, errata. No, let's see. A journalist who writes for a daily newspaper and specializes in checking out restaurants. He goes to a restaurant. He's a gourmet, as they say, and then he has maybe 3/4 hour, so he orders a meal, and then starts eating the food. And obviously, when he's testing the food, he has to be what? Distracted. He has to be concentrated. So this will be one case. Allora, il primo caso, immaginate un giornalista che scrive per una rivista di cucina, diciamo, no? Uno specialista in cucina, appunto, no? In gastronomia, vabbè, non so. Comunque va nei vari ristoranti per assaggiare le specialità dei ristoranti, può scrivere degli articoli su questi cibi. Ovviamente questo giornalista, mentre mangia, mettiamo che abbia tre quarti d'ora di tempo per assaggiare i piatti del ristorante, sarà molto concentrato. No, the second example is maybe not very pleasant, but nonetheless it shows the point. When it comes to an assassin who's been asked and given money to then take the life of some person, when that man then goes and does what he has been told to, he has to be very concentrated in what he's doing. Otherwise he might get caught prior to completing his task. Il secondo esempio non è molto bello, però può capitare che ci sia un assassino di professione, quindi a cui è stato commissionato un assassinio di una persona. Ovviamente questo assassino deve avere un certo grado di concentrazione per poter compiere questo assassinio e quindi uccidere la persona senza essere preso. No, a third example for wrongful concentration is a soldier on battlefield. So the battle is raging back and forth, and so it's a really heavy battle, and this soldier of ours that needs to be perfectly concentrated, otherwise certainly might certainly be killed on the spot. Il terzo esempio è quello di un soldato su un campo di battaglia dove in furia appunto la battaglia, deve essere molto concentrato perché altrimenti lui stesso potrebbe morire, potrebbe essere colpito a morte. In all three cases the concentration that is required and arises in the mind arises in association with unwholesome consciousness. Quindi in tutti e tre questi casi la concentrazione che sorge nella mente è collegata e associata con una coscienza non salutare, con degli stati mentali non salutari. No, on the other hand, concentration that arises in association of wholesome consciousness is concentration that arises in the Vipassana practice, as part of the Vipassana practice, or concentration that arises as part of the Samatha practice. Samatha meaning the mental development through calm. E viceversa, la concentrazione che si sviluppa in associazione con una mente, con una coscienza salutare, è quella che si sviluppa nella pratica di Vipassana oppure nella pratica di Samatha. E per Samatha si intende una pratica che sviluppa la calma. In both certain cases, the intention of developing the concentration is a wholesome one. E in entrambi i casi l'intenzione per di sviluppare la concentrazione è un'intenzione salutare. No. The Vibhanga has certainly defined concentration as steadfastness of the mind. Il Vibhanga definisce la concentrazione come la stabilità della mente, una mente ferma. The Visuddhimagga, the path of purification, comes up with a different definition which is equally valid, namely concentration is the unification of the mind. So various mental factors that are present in the mind are all then unified, they can conglomerate and they all work on one and the same object at a time. E cioè il Suddhimagga, il sentiero della purificazione, dà un'altra definizione leggermente diversa della concentrazione e la definisce come l'unificazione della mente. Questo significa che diversi stati mentali, fattori mentali presenti nella mente, si uniscono e lavorano insieme per osservare un particolare oggetto, si dirigono verso un oggetto. Now, the term noble right concentration is certainly being used, and in one passage in the Majjhima Nikaya, there's mention of seven of the noble eightfold path factors, namely right view, right intention, right speech, and so on. E si parla anche della nobile retta concentrazione, per esempio nel Majjhima Nikaya, quando si elencano i fattori dell'ottuplice sentiero, cioè la retta visione, la retta intenzione, la retta consapevolezza, concentrazione, eccetera. All'interno dell'ottuplice sentiero è visto come una nobile concentrazione. And so, in that passage from the Majjhima Nikaya, it certainly then says unification of the mind equipped with those seven factors, path factors, that is right or noble right concentration. The seven path factors are the other factors of the Eightfold Path? Yes. Okay. So, allora, sempre in questo sutta del Majjhima Nikaya si dice la concentrazione, quando è associata agli altri sette fattori del sentiero, ecco che in questo caso si può parlare della nobile retta concentrazione. Which means the sila group is there, namely virtue is there, in the form of right speech and in the form of right action and right livelihood. Quindi significa che è presente la serie dell'ottuplice sentiero che riguarda sila, la moralità, cioè la retta parola, la retta azione e i retti mezzi di sussistenza. And when we go by this definition, a question that was once put to the venerable Sāruppanītta Bhīmānsa of Burma by a Hungarian yogi after a retreat, he said, Sāruji, what about playing computer games? This requires a lot of concentration. Does this qualify as right concentration? And steadily, the Sāruppanītta said, no. Strange. Allora, una domanda che è stata posta a Sāruppanītta da un meditante ungherese alla fine di un ritiro è stata: ma il giocare ai videogiochi, al computer, può essere considerata una retta concentrazione? E decisamente il Sayadaw ha detto no, non lo è. And so the answer becomes even clearer if the question were playing these machines, slot machines, in a casino, whether obviously it requires some concentration, and whether this is right concentration or wrongful concentration, then pretty clear it's wrongful concentration. Lo stesso esempio vale per quelle persone che giocano nelle sale gioco, no? Fanno giochi d'azzardo, insomma. Ovviamente anche lì la concentrazione è necessaria, ma non è una concentrazione retta. No. Furthermore, we have those definitions of concentration, where concentration is spoken of as part of the absorptions. Mm. And there then it says a state, an absorption, that consists of first initial application of the mind, then sustained application of the mind, and satna joy, and satna happiness, and satna, and then unification of the mind, or one pointedness of the mind, that then qualifies as concentration as part of the samatha practice. Poi si parla anche, un'altra definizione della concentrazione è all'interno dei jhana, quindi degli assorbimenti, quindi la concentrazione che porta ad un assorbimento, e lì si parla di cinque fattori che concorrono a arrivare a questa concentrazione, quindi c'è l'attenzione iniziale, l'attenzione applicata all'oggetto, poi c'è la gioia, la felicità, e l'ultimo è questa mente che è focalizzata su un punto. Quindi questa definizione ovviamente rientra nella pratica di Samatha. So from a practical point of view, what one needs to do is one, let's say if one does intensive metta jhana practice, so one radiates thoughts of loving kindness to a dear person for a while, then one keeps repeating the same phrases in the mind over and over and over again, and then tries to develop a sense of loving kindness, and then at first that jhanic factor of initial application of the mind arises, and then that is predominant for a while, and then gradually as one's practice deepens, then the sustained application of the mind becomes more predominant, so the mind stays more with the subject of one's satna meditation, and then joy becomes the most predominant jhanic factor. Then one experiences this for a while, then this leads on to the arising of the jhanic factor of happiness, and then only does one-pointedness of the mind occur. E quindi se prendiamo per esempio la pratica di metta, che è una pratica che rientra nella samatha, quindi la pratica di jhana, allora inizialmente si ripetono queste frasi di benevolenza verso vari soggetti, e la mente, a forza di ripetere queste frasi, sviluppa una attenzione iniziale verso l'oggetto. Poi, con l'andare della pratica, quando la pratica si approfondisce, questa applicazione iniziale diventa sostenuta, e quindi la mente riesce a restare per più tempo con il suo oggetto. Poi da qui nasce lo stato mentale, lo stato del gianico, diciamo, della gioia, il fattore gianico della gioia, seguito poi dal fattore gianico della felicità, ed è solo allora che la mente arriverà a sviluppare questa concentrazione di una mente fissata su un punto. No, when it comes to the classical fourfold definition of concentration of samadhi, and then the Visuddhimagga says one-pointedness has non-wandering and non-distraction as its characteristic. Quindi per quanto riguarda invece la definizione classica che viene data nel Visuddhimagga dei fattori mentali, che è suddivisa in quattro parti, per quanto riguarda la caratteristica della concentrazione, è quel fattore che non, quella mente che non si distrae, la mente che non divaga. No, its function is to conglomerate or to unite the respective associated mental states, so that they all work on one object at a time. La funzione è quella di unificare, di conglomerare, si dice in italiano, di mettere insieme tutti gli altri fattori mentali presenti nella mente, appunto, perché possano lavorare insieme e dirigersi verso quell'unico oggetto di osservazione. So this particular aspect of concentration could be illustrated by saying it's similar to a laser light. So you've got different laser rays, and at first they go in different directions, and then those laser rays are sent through a lens, which then bundles the rays, and then the laser light becomes really powerful, one-pointed and very powerful light. Per capire questo particolare aspetto della concentrazione, potete immaginare un raggio laser. Quindi inizialmente si presentano vari diversi raggi che vengono poi fatti passare attraverso una lente che li mette insieme, insomma li concentra, appunto, e a quel punto il raggio laser diventa molto potente. No. One-pointedness suddenly then is manifested as peace. Quindi questa unificazione della mente, no? Mente su un punto, si presenta come uno stato di pace. And that then is how we experience concentration. Ed è proprio così che uno fa l'esperienza della concentrazione. Now, the Visuddhimagga gives Satna two nearest reasons or conditions that contribute to the arising of concentration, the first one being happiness, and the second one being wise attention. Wise attention in the sense that the mind is directed, or one directs the mind towards being more and more focused. Sempre Visuddhimagga, quindi nella quarta parte di questa definizione della concentrazione, indica due cause prossime che fanno sorgere la concentrazione. Una è la felicità, e la seconda è la saggia attenzione. E per saggia attenzione si intende una mente che wise attention is a mind that is That is inclined towards the development of concentration. Quindi una mente interessata, una mente che è incline, che si dirige verso questo sviluppo della concentrazione, cioè che desidera lo sviluppo della concentrazione, in poche parole. We always have the option here, either we find it quite okay if the mind keeps being distracted, or there is this deliberate, intentional directing the mind towards being concentrated rather than distracted. E quindi, per spiegare meglio, noi spesso abbiamo questa scelta: possiamo avere una mente distratta, oppure possiamo intenzionalmente scegliere di dirigere la nostra mente verso un particolare oggetto, e ciò facendo e rimanendo con l'oggetto, ovviamente la concentrazione si sviluppa. Now, the mind in itself is extremely flexible, and so it can be used in various contexts. Quindi la mente di per sé è molto flessibile e quindi può essere utilizzata in vari contesti. So, concentration can be developed as part of the samatha meditation, where the mind is fixed onto one single conceptual object. Quindi la concentrazione può essere sviluppata nel contesto della pratica di samatha, e in questo caso la mente è fissata, si fissa, diciamo, su un oggetto concettuale. And certainly, as certainly stated, it could be the object, certainly conceptual object, could be this notion of loving kindness. Per esempio, uno di questi oggetti di samatha può essere, come abbiamo già detto prima, questa idea della gentilezza amorevole, questo stato di gentilezza amorevole. And suddenly then, for hours and hours, for days, one then radiates loving kindness to the dear person, later on to a very dear person, and so on. E in questa pratica, per delle ore, giorni, settimane, insomma per lungo tempo, la persona sviluppa questo sentimento di gentilezza amorevole verso le varie categorie, quindi prima la persona cara, poi l'amico e via di seguito. No, that loving kindness that one is radiating is somewhat artificial because one introduces it into the mind. Quindi questa gentilezza amorevole che la persona sviluppa è un po' artificiale, perché è come se la immettesse nella mente, Deliberately one introduces it. È come se uno deliberatamente la inserisce nella propria mente. And therefore it's considered a conceptual object. È per questo che è considerato un oggetto concettuale. It becomes even more obvious when explaining how the kasina practice works, namely using some colored satna disc, could be blue, red, green, and satna then one focuses on this with open eyes, and satna then says red kasina, etc., and this for hours. And so obviously this is a conceptual object, something introduced into the mind. E questo è ancora più evidente nella pratica dei kasina. che consiste nel osservare un cerchio di vario colore, per esempio rosso, bianco, quello che è, e la mente continuamente ripete, in questo, nel caso della casina rossa, casina rossa, rossa, rossa, e quindi qui è evidente che di nuovo c'è un concetto che viene introdotto nella mente. No. With this thing, various, with this kind of practice, various levels of concentration then gradually arise. E con questo tipo di pratica ci sono vari livelli di concentrazione che sorgono. Such as certain access, certain concentration, such as attainment concentration. E come per esempio la concentrazione d'accesso o la concentrazione di attainment. When the first jhana arises. Sì, quando si entra praticamente nel primo jhana. Access è quello di accesso, poi c'è quella di quando si raggiunge il primo jhana, diciamo. No, access concentration is in the sense concentration that is very close to reaching the first or second jhana, etc. Concentrazione di accesso è quella che permette di arrivare molto vicino, quindi proprio alla soglia dell'ingresso in un jhana, cioè in un assorbimento. No, different from this is the approach during vipassana practice. Invece nella pratica di vipassana è molto diverso l'approccio. Now here we do not introduce any artificial objects into our field of observation, but rather just observe and know whatever object arises naturally. So these could be various physical objects, so your rising, falling movement of the abdomen, pains, aches, heat, cold, hardness, and so on, plus various mental phenomena. Quindi nella pratica di Vipassana non si introducono degli oggetti dall'esterno, ma piuttosto si osserva tutto ciò che sorge o a livello del corpo o della mente. Quindi possono essere dei dolori, un calore, freddo, caldo freddo, oppure duro, morbido, oppure per esempio degli stati mentali anche. So the approach here is that whenever a retreatant focuses on some object, then for that period of time the mind ideally is concentrated. Quindi qui l'idea è che quando un meditante si focalizza su un oggetto in particolare, per quel momento, per quell'attimo, la mente è concentrata. Then once that object has suddenly disappeared, then the mind selects the next most predominant object and then stays with that object for however long it lasts. Quindi quando sparisce questo primo oggetto, ne sorge un altro, la mente di nuovo si posa su questo secondo oggetto e rimane concentrata sull'oggetto per il tempo in cui dura l'oggetto. It goes on like this for the entire sitting session, and certainly even in the walking meditation, the mind is focused on whatever predominant sensation comes up while one is lifting the foot, while one is moving the foot forward and lowering and placing the foot. E questo vale sia per la meditazione seduta sia per la camminata, cioè la mente è continuamente focalizzata su qualunque oggetto sorga. Per esempio nella camminata, il piede che si alza, che avanza, che si abbassa, eccetera. No, if during one's during a sitting session or one walking session, one is very concentrated on a number of different objects, while observing those objects, the resultant will be very strong concentration. Quindi se una persona è veramente molto attenta a tutti gli oggetti che sorgono successivamente nella propria pratica, la risultante di tutti questi momenti di attenzione sarà una concentrazione molto forte. And it's actually a number of plenty of moments of concentration that pile up, that add up while observing different objects. Quindi si tratta di una serie di momenti di concentrazione che si accumulano man mano che si osservano continuativamente gli oggetti che sorgono. And this kind of a concentration that arises as part of the Vipassana practice is known as Kanika Samadhi. Questa concentrazione, quella che sorge attraverso la pratica di Vipassana, si chiama Kanika Samadhi. And so that translates into English as momentary concentration. E in inglese viene tradotta come concentrazione momentanea, in inglese, in italiano. However, the translation is somewhat misleading, because momentary concentration, then it seems as if there's just one moment of concentration, and that's not the case. It's many moments of concentration that are being added as one observes various objects. Però è un po' fuorviante questa definizione di concentrazione momentanea, perché dà l'idea di una concentrazione che dura solo un momento e poi un altro, poi un altro. Invece l'idea è quella di una concentrazione che si sviluppa osservando continuativamente gli oggetti, e quindi ha anche un certo, come dire, una certa progressione, una certa crescita nella concentrazione. No. When we engage in this certain of a Vipassana practice, then very, very high levels of concentration can be developed. Quindi quando ci applichiamo nella meditazione di Vipassana si possono raggiungere dei livelli molto profondi di concentrazione, anzi molto alti, diciamo, and di concentrazione. The concentration that is present in the mind just before a retreatant realizes, let's say, the first noble path, a certain level of enlightenment, that concentration is extremely powerful, so powerful that together with the other enlightenment factors, it helps to even eradicate, to cut off certain mental defilements. La concentrazione che un meditante può sviluppare arrivando proprio alla soglia, diciamo, all'ingresso del primo stadio di illuminazione, quindi all'entrata nella corrente, beh, quel tipo di concentrazione è potentissima ed è in grado anche di radicare dei forti difetti mentali. And that level of concentration that is present at that certain point is far higher than the concentration that arises during samatha meditation, which never by itself manages to eradicate any mental defilements from the stream of consciousness. E quel livello di concentrazione che sorge a quel punto della pratica, insieme agli altri fattori di illuminazione, che mi sono dimenticata di dire prima, la concentrazione che si sviluppa a quel punto è molto più forte di quella che si sviluppa nella meditazione di samatha, che comunque di per sé non è sufficiente per sradicare i difetti mentali. Sì, non tutti i difetti mentali, ma determinati difetti mentali. So, when it comes to our mindfulness practice or Vipassana practice, so we try to observe whatever predominant object comes along, and we try to know its nature. In order to know the nature of an object, obviously the mind needs to be somewhat concentrated and not distracted. Now, a retreatant might suddenly then feel, well, the mind is somewhat concentrated, but not concentrated enough. So what could I possibly do to further strengthen the concentration? Quindi in questa pratica di consapevolezza o di Vipassana, lo scopo è quello di conoscere la vera natura dei fenomeni o degli oggetti che si presentano. Per fare ciò è necessaria una certa dose di concentrazione, cioè la mente non può essere distratta. Allora uno può chiedersi, ma cosa posso fare per aumentare il mio grado di concentrazione nella pratica? And certainly in this certain context, then we should pay much attention to virtuous conduct, that both in bodily action as well as in speech, and in particular in speech, that our conduct is ethical. E quindi a questo riguardo è molto importante essere sicuri, assicurarci che la nostra condotta morale sia ottimale, diciamo, sia nelle nostre azioni, che ci siano rette azioni, ma soprattutto nella retta parola, per quanto riguarda la retta parola. Now, you can imagine what would happen if a retreatant here on retreat starts quarreling with fellow retreatants, or maybe with the management of this place. And having to live together, trying to develop concentration, but then at the same time picking a fight and so on, well, that will create a lot of agitation. And certainly this retreatant will have a hard time developing concentration. Potete immaginarvi un meditante ad un ritiro come questo che comincia a litigare con un compagno di pratica o con qualcuno dello staff. Beh, questa persona avrà molte difficoltà a sviluppare la concentrazione perché ci sarà molta agitazione nella sua mente. So there's a passage in the Anguttara Nikaya that highlights this particular aspect. And so basically it's saying that friendly forms of communication are related to concentration. E nell'Anguttara Nikaya c'è un passaggio in cui viene sottolineato questo aspetto, laddove si dice che avendo delle forme amichevoli di comunicazione può favorire una maggiore concentrazione. No. As mentioned at the very outset of this retreat, restraint of the senses is important, and it is important because, for one reason, it helps to develop our concentration. E come abbiamo detto all'inizio di questo ritiro, è molto importante nella pratica limitare l'impatto sensoriale, controllare i sensi, e il motivo di ciò è anche per consentire lo sviluppo della concentrazione. So if we find that our concentration is somewhat weak, then we could check how are we doing in terms of restraint of the senses. And so if there's room for improvement, then to make the necessary adjustments. Quindi se notiamo che c'è difficoltà a sviluppare la concentrazione nella nostra pratica, possiamo controllare, insomma verificare come sia il nostro controllo dei sensi, cioè se riusciamo veramente a limitare l'impatto sensoriale. Now, sometimes there are retreatants whose head is down, they appear pretty restrained, but then the eyes are going to the right, they are going to the left, and so on. That obviously is not proper restraint of the senses. A volte ci sono i meditanti che hanno la testa bassa, quindi sembra che siano veramente, come dire, che i loro sensi siano protetti. In realtà però hanno gli occhi che vanno di qua a di là, si guardano intorno, e quindi questo ovviamente non funzionerà. Now, happiness was given as one of the two proximate causes for the arising of concentration, and contentment is somewhat related. Contentment itself also helps developing concentration, namely being contented with whatever is being offered in terms of accommodation, in terms of food, in terms of infrastructure, and so on. But if a retreatant is extremely fussy and wants this and wants that and different kind of foods and whatnot, then it would be difficult to develop concentration. Abbiamo detto che la felicità è una delle cause prossime per lo sviluppo della concentrazione, è collegato con la felicità, c'è la forma di appagamento, di soddisfazione. Questo significa, per esempio, durante un ritiro, accontentarsi o essere appagato da ciò che viene offerto come cibo, come vitto, alloggio, come accoglienza, insomma, o come... insomma, tutto ciò che riguarda la sistemazione nella casa. Viceversa, se il meditante sarà un po' capriccioso, voglio questo, voglio quest'altro, o troppo esigente, allora questo anche non favorirà lo sviluppo della concentrazione. Now, there's even a link between food and concentration. If we eat too much food, then we end up drowsing, and then the mind cannot be concentrated. If we eat not enough food, we might end up feeling hungry and feeling weak, and that too will not help the concentration. So ideally, moderation in taking food is being praised. C'è anche un collegamento tra la concentrazione e il cibo, ovvero se si mangia troppo c'è la tendenza a sviluppare sonnolenza nella pratica, quindi questo ovviamente non favorirà la concentrazione. Se si prende troppo poco cibo ci sarà invece un senso di fame, e anche questo sarà di ostacolo allo sviluppo della concentrazione, quindi il consiglio è di essere moderati nel mangiare. Two more factors are given, namely in the Chulavedala Sutta. It says that the development of the four rights or four supreme efforts, as mentioned yesterday, they contribute to the arising of concentration, as well as the development of the four satipatthana, so the four establishments of mindfulness. So by being mindful continuously from moment to moment to moment throughout the day, that naturally then helps to strengthen our concentration. In un altro sutta, di cui non ricordo il nome, Chulavedala, si indica come causa, diciamo, come fattori che possono promuovere la concentrazione, i quattro nobili sforzi di cui abbiamo parlato ieri sera, e anche i quattro fondamenti della consapevolezza. Questo vuol dire che se uno è consapevole in maniera continuativa di tutti gli oggetti che appartengono a questi quattro campi della consapevolezza, beh, questo ovviamente favorirà lo sviluppo della concentrazione. Now, what do you think? When we try to develop concentration, is this best done with a mind that is filled with unwholesome mental states, so the hindrances, mental defilements, a little bit of greed, a little bit of anger on occasions, all okay, and that maybe some pride and conceit coming up? Does this contribute to the development of concentration, or a different situation, a mind that is free of greed, free of anger, free of pride and conceit, etc.? Cosa pensate? Quale tipo di mente può essere più favorevole, diciamo, allo sviluppo della concentrazione? Una mente piena di difetti mentali, in cui è presente la brama, la rabbia, l'orgoglio, eccetera, oppure viceversa una mente che è libera da questi inquinanti mentali, in cui non c'è brama, non c'è rabbia, non c'è orgoglio, presunzione, eccetera. So, what do you think? Cosa pensate? Berlusconi è per la seconda. What's that? No, he's mentioning a politician. Oh, he's a politician. No, he says Berlusconi, who used to be the prime minister, he would say the second. He would say the second, yes, indeed. And you? E voi cosa direste? What's that? The answer is obvious. The answer is obvious, but it's just because I've, you know, the introduction was obvious. Sì, perché? But in reality, sorry. No, she's saying my mind does the opposite. Obviously, she says I know what is right, but that's not right. So the mind has this habit of actually quite liking some of those mental defilements. A little bit of drowsiness, so what? It's nice. Don't have to face this practice all the time. It's so tiring to observe the rise and fall. I know. Perché la nostra mente ha la tendenza a volte a apprezzare anche certe volte questi difetti mentali. Sì, c'è un po' di sonnolenza, ma tanto perché mi devo sforzare più di tanto? Va bene anche così. No. And suddenly, then the restlessness. Well, what's wrong with the mind being a little bit restless? It's okay. E quindi uno con l'irrequietezza, per esempio. Vabbè, cosa c'è di male se c'è un po' di irrequietezza nella mente? No, non è così importante. You can also take coffee against sleepiness, she says. Okay, you take the coffee against the sleepiness, and then you end up with an agitated mind. Sì, però poi. Di conseguenza hai una mente agitata se prendi il caffè. So coffee may help to some extent, but don't depends on the amount. Il caffè può aiutare fino a un certo punto, ma dipende da quanto ne prendi. So what becomes obvious with this sudden small exploration is that for concentration to really develop, we need a pure state of mind. The concentration needs to be accompanied ideally by other wholesome mental states and not by the unwholesome mental states, because those usually have a negative impact on the mind. They torment the mind, they cause the mind to malfunction. E quindi l'idea è che perché si possa sviluppare la concentrazione, la mente deve essere pura, ci deve essere della purezza nella mente, perché i difetti mentali, questi inquinanti mentali di cui abbiamo parlato, hanno questa capacità di tormentare la mente, di farla funzionare male, di interferire con il funzionamento della mente e quindi impediscono lo sviluppo della concentrazione. No. Maybe one more point. There's others, we don't have the time. Now, the walking meditation could serve as yet another way of strengthening our concentration. Strengthening the concentration. There's a discourse in the Anguttara Nikaya that speaks of five benefits of walking meditation, and one is that walking meditation leads to durable concentration. C'è un altro modo per poter rinforzare la concentrazione è con la meditazione camminata. E c'è proprio un passaggio nell'Anguttara Nikaya, un sutta, in cui si parla dei cinque benefici della meditazione camminata. E uno di questi benefici è proprio il fatto che produce una concentrazione durevole. No. Ideally, our concentration should have the following characteristics, namely, the mind is not distracted by pursuing the past. Quindi la concentrazione idealmente dovrebbe avere queste caratteristiche. La prima è che la mente non insegue il passato. Nor is it agitated by longing for the future. Non è neanche agitata desiderando qualcosa nel futuro. Nor is it shrunk through lethargy. E neanche si restringe la mente, come si può dire, sì, a causa di uno stato letargico. Nor is the mind agitated through restlessness. E né la mente è agitata a causa dell'irrequietezza. Nor is the mind servile through passion. E non è neanche enslaved, sì, through passion. Resa schiava dalla passione. Nor is the mind stubborn through anger, stubborn resisting through anger. Ed è una mente cocciuta o che oppone resistenza a causa della rabbia. Another factor that allows satna for proper functioning of the mind is that satna those five controlling faculties are well balanced. So there's two pairs here. One consists of faith and wisdom that needs to be balanced, as well as the second pair consisting of energy and concentration. Un altro fattore che aiuta lo sviluppo della concentrazione è riuscire a equilibrare le cinque facoltà di controllo di cui abbiamo parlato prima, e queste di solito vengono a coppie, quindi c'è la fede che va equilibrata con la saggezza, poi c'è la concentrazione che va equilibrata con l'energia, con lo sforzo. And furthermore, those five controlling faculties are all directed towards a single purpose. E inoltre queste cinque facoltà di controllo vanno indirizzate verso uno stesso scopo, lo stesso obiettivo. And certainly then there should be enough energy to fulfill the earlier two points. E inoltre è necessario che ci sia sufficiente energia per soddisfare i due punti precedenti. And satna then concentration improves simply through repeated practice. E inoltre la concentrazione migliora semplicemente attraverso la pratica, ripetuto, l'esercizio praticamente. So on occasion check whether your concentration is up to the mark or not. Quindi ogni tanto controllate per vedere se la vostra concentrazione è adeguata oppure no. Now, briefly, since this is a hot certain topic, briefly, a few remarks about concentration practice or samatha practice versus vipassana practice. The concentration that arises in samatha meditation and concentration that arises in vipassana meditation. Allora, molto brevemente alcune considerazioni riguardo alle due pratiche di samatha e di vipassana, o meglio la concentrazione che sorge nella samatha e quella che sorge nella vipassana. Now, there are those who very much subscribe to developing concentration as part of samatha meditation. Molti ritengono utile e importante sviluppare la concentrazione all'interno della pratica di samatha. And so, here one approach is that a retreat, a teacher might suggest, well, for the students first to train in the jhanas, to develop certain degrees of concentration or levels of concentration, and then only to go on to vipassana practice. Ci sono alcuni insegnanti che ritengono che sia più utile per l'allievo cominciare con la pratica di samatha, quindi sviluppare i jhana, e poi proseguire nella pratica di vipassana. Now, on the other hand, we have the so-called dry vipassana, sukha vipassana, which then consists of just doing vipassana practice, not bothering first developing the jhanas as a prerequisite for vipassana practice. E poi c'è la cosiddetta vipassana secca, o sukha vipassana, che è quella che invece invita a fare solo la vipassana senza necessariamente iniziare con la pratica dei jhana, come se fosse un prerequisito per la pratica dell'insight o della vipassana. And as mentioned early on, the mind is flexible, hence it can be trained in both ways. E come abbiamo detto prima, la mente è flessibile, quindi può essere addestrata in entrambi i modi. And there are those who are highly successful in doing dry vipassana, so totally without samatha practice, and then there are those who first do samatha or develop the jhanas and then only go on to do vipassana. Ci sono quelli che hanno grandi progressi nella pratica, nella loro pratica, facendo questa vipassana secca, diciamo, cioè senza alcuna pratica di samatha, e ci sono quelli che invece hanno maggiori progressi nella pratica cominciando con la samatha e poi procedendo con la vipassana. Now, the Mahasi approach is retreatants are usually first asked to focus on their vipassana practice exclusively and to develop this to a high level as possible, and then if interest is there, then to maybe go on with samatha practice, so to practice the divine abodes. Di Brahmaviharas. Nella tradizione o nell'approccio Mahasi si insegna agli allievi di iniziare con la vipassana, praticare la vipassana inizialmente, esclusivamente la vipassana, fino a un certo grado, dopodiché se c'è l'interesse il meditante può scegliere di passare alla pratica di samatha, per esempio praticando le dimore divine, i Brahmavihara. Now, the true nature in samatha practice is certain concentration and certain the development of it, whereas in vipassana practice the true nature is wisdom. Quindi nella pratica di samatha la vera natura, diciamo, è lo sviluppo della concentrazione, mentre la vera natura della pratica di vipassana è lo sviluppo della saggezza. No, the result of samatha meditation comes in the form of one-pointedness, and this then in different levels, namely various levels of absorption. E quindi il risultato della pratica di samatha viene con questa mente focalizzata su un punto, e quindi per questo ci sono i vari livelli di assorbimento. Now the result of the vipassana practice comes in the form of the arising of various insight knowledges one by one. Invece lo sviluppo della pratica di vipassana si presenta come il sorgere dei vari insights, cioè delle intuizioni profonde, una dopo l'altra. And so these insight knowledges, to be very clear, do not arise in the samatha practice. If one practices it by itself. E quindi, solo per essere molto chiari, queste conoscenze dell'insight non sorgono nella pratica di samatha se si fa esclusivamente samatha. So, eventually, with vipassana practice, we can, as mentioned earlier on, eradicate certain mental defilements from the stream of consciousness, whereas with samatha, just pure samatha practice, this is not possible. E come abbiamo detto prima, con la pratica di vipassana è possibile a un certo livello sradicare alcuni difetti mentali dal flusso della coscienza, mentre invece questo non è possibile con la pratica di samatha. And with vipassana practice, various, as mentioned, various insight knowledges arise, and leading all the way up to the realization of the Dhamma, and bringing about profound changes, whereas in samatha meditation, not even the first insight knowledge arises, not even this distinction between mind and matter comes up. E grazie alla pratica della vipassana, come abbiamo detto, ci sono c'è lo sviluppo di questi insights, queste intuizioni, conoscenze intuitive, che arrivano fino a avere l'esperienza del Nibbana, quindi fino a sperimentare il Dhamma, mentre nella pratica di Samatha non si arriva neanche al primo di questi insights, se è fatto esclusivamente. No. In colloquial terms, Samatha practice has been expressed as being feel-good practice, so you know, there's an emphasis on good, pleasant feelings that come up, whereas Vipassana practice has been expressed as dukkha practice. Whereas this is not quite fair, because there's a fair amount of sukha also arising. Quindi una classica definizione che si dà della pratica di Samatha è che è una pratica che fa stare bene, in inglese feel good practice, una pratica appunto che ha come obiettivo il benessere, ecco. Mentre invece la pratica di Vipassana è chiamata dukkha, pratica di dukkha, che significa sofferenza, ma questo Bhante dice non è vero, non gli fa giustizia, perché c'è anche molto sukha, cioè molta felicità anche nella Vipassana. Now, what happens is when retreatants are very eager to first develop the jhanas, then they get used to the joint happiness that arises as part of the first jhana and then later jhanas. Quello che può succedere è che i meditanti, se iniziano con la pratica di Samatha, possono appunto godere di questa gioia, felicità che deriva dalla pratica e possono abituarsi a questi stati. And so when life gets a little bit difficult, I mean life outside, outside of a retreat, then such a retreatant will then escape into the joy and happiness of a jhana. E quindi quando la vita si fa difficile, soprattutto fuori da un ritiro, allora un meditante potrebbe scappare, fuggire o rifugiarsi nella gioia, nel piacere di questi stati di jhana. No, from a practical point of view, from a teacher's perspective, I have noticed the following. Retreatants who've done samatha practice prior to vipassana practice have maintained that tendency every time the vipassana practice gets a little bit difficult and some dukkha experiences come up, so some challenging physical or mental formations come up, immediately they want to go off into their first jhana. L'esperienza che ho io come insegnante di meditanti che hanno iniziato con la pratica di Samatha, appunto dei jhana, e che nel praticare Vipassana, appena sorge una difficoltà, appena fa capolino, un po' di dukkha, ecco che vogliono subito rifugiarsi nel primo jhana. No, it's maybe not everyone like this, but certainly a fair amount. Ovviamente non sono tutti così, ma un buon numero. And so, when you have a retreatant like this, then it's very difficult to teach, because the person will hold on to his or her experiences of joy and happiness, and will not want to observe objects as they truly are, and in particular when the dukkha comes up. È molto difficile trattare con un meditante di questo tipo, perché si aggrapperà molto fermamente a questi stati di felicità, di gioia, e sarà molto difficile per questa persona osservare i fenomeni per come sono, soprattutto quando si presentano con questo aspetto di dukkha, quindi quando c'è un po' di difficoltà o sofferenza. When discussing this topic, this comparison of samatha practice and vipassana practice with the Venerable Sayadaw Pandita, the Bhikkhus of Burma, he added a really interesting point. He said, samatha meditators, or samatha meditation, does not lead to spiritual stamina or resilience. So the mindset doesn't gain that quality. Whereas in Vipassana practice, that comes with the package or is part of the package. Discutere questa questione tra Samatha o Vipassana con il venerabile Mahasi Sayadaw di Birmania, scusate, un pandita, allora lui ha aggiunto un punto interessante, ha detto: i meditanti che fanno Samatha non sviluppano quella resistenza nella mente, quello spirito di sopportazione, diciamo, che invece viene sviluppato attraverso la pratica di Vipassana. See, when you do straightforward Vipassana practice, then at certain points, equanimity comes up. The mental factor of equanimity, equanimity, balance of mind, neutrality of mind. And whatever predominant object comes along, whether it's to one's liking or not, desirable or not, the mind can take it. And for the mind, it's just another object, just another phenomenon. And that is your spiritual resilience. The mind is no longer affected by objects, be they pleasant or unpleasant. Perché nella pratica di Vipassana si arriva a un certo punto dove diventa molto forte o si sviluppa in maniera stabile l'equanimità e quindi la mente riesce a stare con quello che c'è, che sia piacevole o spiacevole, non ha più importanza. Ed è qui che entra in gioco proprio questa resistenza, diciamo, spirituale che appunto permette di affrontare qualsiasi situazione, qualsiasi oggetto che si presenti nella coscienza o nella mente. So Vipassana practice clearly strengthens your spiritual stamina, your spiritual resilience, and that will be useful during retreat itself, but especially outside of retreat. Sicuramente la Vipassana rinforza la mente, rinforza questa resistenza, questa energia, diciamo, della mente. E questo sarà importante sia nella pratica ma anche nella vita quotidiana. Ok, we're already quite advanced in terms of time, so allow me to conclude by wishing. May, in a pure mind, much shutting concentration arise, and may that shutting concentration help you as part of the Vipassana practice to then clearly discern, clearly see the nature of whatever predominant physical or mental object comes up, and may all of this eventually lead you to the realization of the liberating peace of Nibbana. And may this happen possibly during this retreat or else during some other retreat. Quindi concludo il discorso augurandovi in una mente pura di poter sviluppare una forte concentrazione che vi permetta di vedere molto chiaramente la natura di qualsiasi oggetto che sorga nella mente o nel corpo e che questo, come parte della pratica di Vipassana, e che tutto ciò possa condurvi a sperimentare, possibilmente in questo ritiro, ma magari nel futuro prossimo, la pace liberatoria, liberante del Nibbana. Sanu, sanu, sanu. She wants to ask something. Sure. Quando ho fatto il video di cattiva concentrazione, io non ho capito il primo, quello che va a fare. E poi, seconda cosa, quali sono i difetti mentali che non possono essere cambiati dalla Vipassana? Perché lei ha fatto dicendo... non con la Vipassana, cioè col primo stadio di illuminazione praticamente. But anyway, her first question is, she didn't understand, you gave three examples of wrong concentration, and the first was in the restaurant, the person here. The gourmet, yeah. And she couldn't understand why that is wrong concentration. Because there's greed involved here. Perché nel primo esempio di errata concentrazione la mente conteneva della brama. Ah, okay. the gourmet goes to the restaurant and said not such again liberation but to taste the food and right. Cioè questo gourmet, che non so in italiano si dice gourmet anche, va al ristorante non per cercare la liberazione, ma per assaggiare del buon cibo, e quindi la mente è contaminata. And her second question was, you said that in Vipassana, not all mental defilements are uprooted. But I think you were mentioning the first stage of enlightenment. Yeah, sure. Right? And so she's asking, what are the mental defilements that are not uprooted through the practice of Vipassana? No, later on they will be. Mm. So the remaining ones, with the first level of attainment, what is it? The wrongful belief in yourself, that goes, so that's a view. And certainly then secondly, skeptical doubt will also go. And certainly the third one is yet again a view, namely the wrongful belief in, or wrongful belief that in performing rites and rituals one can gain the Dhamma. Cioè l'idea che ci sono, cioè prima o poi raggiungendo la piena liberazione ti liberi di tutti i difetti mentali, però l'idea è che ci sono vari stadi di liberazione. Nel primo stadio, che è quello del colui o colei che entra nella corrente, e ne elimini tre fondamentalmente, quindi la errata idea di un sé, il dubbio scettico nel Dhamma, e il terzo è il ritenere, cioè ti liberi dalla credenza che siano i riti o i rituali che possano portarti alla liberazione. And the mental factors, mental defilements that remain to be eradicated are sensuous greed and ill will. Quindi quelli che rimangono ancora a questo livello sono il desiderio sensoriale, la malevolenza. And certainly, furthermore, we have, let me see, sloth and, no, sorry, worry. Worry also goes with the third. Con il terzo livello del sentiero va via anche la preoccupazione. I primi due li ho detti. And with the last path, the fourth path, then sloth and torpor, restlessness, pride and conceit and ignorance. Quindi invece con il quarto, quindi ed ultimo stadio di liberazione, se ne vanno appunto la pigrizia, il torpore, l'irrequietezza, la presunzione, l'orgoglio and what was the last pride and conceit e l'ignoranza. Quindi è una cosa graduale, diciamo, un po' per volta se ne vanno tutti. Yeah. So maybe this would be for tonight. I know you have, or you might still have some questions, but let's keep those for tomorrow. Mm-hmm. So, okay, possibly that.